5F. Ascolta e trasforma. Berresti qualcosa? Berreste qualcosa? Rimarresti ancora? Rimarreste ancora? Terresti il mio cane? Terreste il mio cane? Tradurresti questa lettera in cinese? Tradurreste questa lettera in cinese? Mangerei una fetta di dolce, ma sono a dieta. Mangeremmo una fetta di dolce, ma siamo a dieta. Festeggerei la promozione, ma è ancora presto. Festeggeremmo la promozione, ma è ancora presto. Lascerei a te la moto, ma mi serve. Lasceremmo a te la moto, ma ci serve. Abbraccerei tutti i presenti, ma è materialmente impossibile. Abbracceremmo tutti i presenti, ma è materialmente impossibile.